Il signor Edwards incontra Babbo Natale. Le giornate erano corte e fredde e il vento fischiava minaccioso, ma non nevicava. Piogge fredde cadevano giorno dopo giorno, picchiettando il terreno e gocciolando dalle grondaie. Mary e Laura stavano vicino al fuoco a cucire i quadrati per le loro coperte patchwork, a ritagliare bamboline nella carta da pacchi o ad ascoltare il rumore umido della pioggia. La sera faceva così freddo che il giorno dopo pensavano di trovare la neve, ma al mattino vedevano solo triste erba bagnata. Schiacciavano il naso contro i vetri delle finestre che papà aveva costruito ed erano felici di poter guardare fuori, ma avrebbero voluto vedere la neve. Laura era ansiosa perché il Natale era vicino e Babbo Natale e le sue renne non potevano viaggiare senza neve. Mary aveva paura che anche se avesse nevicato, Babbo Natale non sarebbe riuscito a trovarle laggiù, nella terra degli indiani. Quando chiesero a mamma, lei non seppe rispondere. Che giorno è? Le domandarono preoccupate. Quanti giorni mancano a Natale? E contavano i giorni sulle dita finché non ne rimase uno solo. La pioggia continuava a cadere quella mattina. Nel cielo grigio non c'era neanche uno spiraglio. Laura e Mary erano quasi sicure di non poter festeggiare il Natale, ma continuavano a sperare. Poco prima di mezzogiorno la luce cambiò, le nuvole si aprirono e brillarono candide nel cielo limpido e blu. Il sole splendeva, gli uccelli cantavano e migliaia di goccioline d'acqua scintillavano sull'erba. Ma quando mamma aprì la porta per far entrare un po' d'aria fresca, sentirono il fragore del ruscello. Non avevano pensato al ruscello. Ora sapevano che non avrebbero festeggiato il Natale perché Babbo Natale non sarebbe riuscito ad attraversare il ruscello in piena. Papà entrò in casa con un grosso, grasso tacchino, disse che pesava almeno 10 chili. Ne era così certo che, se avesse sbagliato, si impegnava a mangiarlo tutto intero, piume comprese. Chiese a Laura: Che te ne pare? Come cena di Natale? Ce la farai a mangiare una di queste grosse cosce? Laura disse di sì, ce l'avrebbe fatta. Mamma restava seria. Poi Mary chiese se Ruscello stesse scendendo e lui rispose che continuava a salire. Mamma disse che non era una buona cosa. Non sopportava l'idea che il signor Edwards trascorresse il Natale da solo, cucinando per sé. Lo avevano invitato a trascorrere il Natale con loro, ma papà scosse la testa e disse che era troppo pericoloso attraversare il ruscello in quelle condizioni. No, disse, la corrente è troppo forte. Dobbiamo rassegnarci al fatto che Edwards non verrà domani. Ovviamente, questo significava che nemmeno Babbo Natale sarebbe potuto venire. Laura e Mary cercavano di non pensarci troppo. Guardarono mamma preparare il tacchino. Era davvero grosso. Mamma disse che erano bambine fortunate. Avevano una bella casa in cui vivere, un fuoco caldo accanto a cui sedere e un buon tacchino per la cena di Natale. Era vero. Mamma aggiunse che era proprio un peccato che Babbo Natale non potesse venire quest'anno, ma che loro erano talmente brave che non le avrebbe dimenticate e sarebbe senz'altro venuto l'anno prossimo. Però non erano felici. Dopo cena, quella sera, si lavarono le mani e il viso, si abbottonarono le camicie da notte di flanella rossa, si annodarono le cuffie da notte e dissero solennemente le loro preghiere. Si misero a letto e si coprirono. Non sembrava affatto Natale. Papà e mamma sedevano in silenzio vicino al fuoco. Dopo un po' mamma chiese a papà perché non suonasse il violino e lui rispose: Non me la sento, Caroline. Dopo un po' mamma si alzò di scatto. Appenderò comunque le vostre calze, bambine, disse. Non si sa mai. Laura sentì un tuffo al cuore. Poi ripensò al ruscello e pensò che non sarebbe potuto succedere niente. Mamma prese una calza pulita di Mary e una di Laura e le appese alla mensola del camino, ciascuna da un lato del focolare. Laura e Mary la osservarono da sotto le coperte. Adesso dormite, disse dando loro il bacio della buonanotte. Il mattino arriverà più in fretta se dormite. Mamma sedette di nuovo accanto al camino e Laura era sul punto di addormentarsi. Si scosse un po' quando sentì papà dire: Non hai fatto che peggiorare le cose, Caroline. Poi pensò di aver sentito mamma dire: No, Charles, c'è lo zucchero bianco. Ma forse stava sognando. Poi sentì Jack ringhiare rabbiosamente. Il chiavistello sbatté e qualcuno disse: Ingalls! Ingalls! Papà stava attizzando il fuoco e quando aprì la porta Laura vide che si era fatto giorno. Accidenti, Edwards! Entra, amico! Cosa è successo? Esclamò papà. Laura vide le calze vuote penzolare sul camino e nascose la faccia nel cuscino. Sentì papà aggiungere legna al fuoco e sentì il signor Edwards dire che aveva attraversato il ruscello trasportando i suoi vestiti sulla testa. Batteva i denti e la sua voce tremava. Si sarebbe ripreso, disse, non appena si fosse scaldato. Hai rischiato grosso, Edwards, disse papà. Siamo felici che tu sia qui, ma hai rischiato la vita per una cena di Natale. Oh, le bambine meritano di avere un vero Natale, rispose il signor Edwards. Non c'è ruscello che possa fermarmi quando mi porto dietro i loro regali da Independence. Laura sedette sul letto. Ha visto Babbo Natale? Esclamò. Certo che sì, disse il signor Edwards. Dove? Quando? Com'era? Cosa le ha detto? Le ha davvero dato qualcosa per noi? Urlarono Mary e Laura. Aspettate, aspettate un attimo, disse ridendo il signor Edwards. Mamma disse che bisognava mettere i regali nelle calze, proprio come avrebbe fatto Babbo Natale, e che loro non dovevano guardare. Il signor Edwards sedette sul pavimento vicino al letto e rispose a tutte le loro domande. Le bambine cercavano di non guardare mamma, videro appena quel che stava facendo. Poiché il ruscello era in piena, il signor Edwards aveva capito che Babbo Natale non sarebbe riuscito ad attraversarlo. Ma lei l'ha attraversato, disse Laura. Sì, rispose il signor Edwards. Ma Babbo Natale è troppo vecchio e grasso, non poteva farcela. Un uomo alto e forte come me, invece sì. Il signor Edwards aveva pensato che se non poteva attraversare il ruscello, Babbo Natale si sarebbe fermato a Independence. Perché percorrere 60 km in mezzo alla prateria per poi tornare sui suoi passi? Di certo non l'avrebbe fatto. Così il signor Edwards era andato a piedi fino a Independence. Sotto la pioggia? Chiese Mary. E il signor Edwards rispose che indossava un impermeabile. E lì, per le strade di Independence, aveva incontrato Babbo Natale. Ma in pieno giorno? Chiese Laura. Non pensava che fosse possibile incontrare Babbo Natale in pieno giorno. No, disse il signor Edwards. Era notte, ma la strada era illuminata dalle luci dei locali. Per prima cosa Babbo Natale aveva detto «Ciao, Edwards!» «Lo conosceva?» chiese Mary. «Come ha fatto a capire che era davvero Babbo Natale?» E il signor Edwards disse che Babbo Natale conosceva tutti e lui l'aveva subito riconosciuto dai suoi baffi. Babbo Natale aveva i baffi più lunghi, folti e bianchi di tutto il Mississippi. Così Babbo Natale aveva detto: Ciao Edwards, l'ultima volta che ti ho visto stavi dormendo su un letto di bucce di mais nel Tennessee. E il signor Edwards si ricordò delle piccole mufole di lana rossa che Babbo Natale gli aveva regalato quella volta. Allora Babbo Natale aveva detto: Ho saputo che vivi vicino al fiume Verdi Gris. Per caso conosci due bambine di nome Mary e Laura? Certo che le conosco, aveva risposto il signor Edwards. Non so proprio come fare, aveva detto Babbo Natale. Sono due bambine brave, belle e buone. E so che mi stanno aspettando. Non sopporto l'idea di deludere due bambine tanto brave. Ma con l'acqua così alta mi è impossibile attraversare il ruscello. Non riuscirò a raggiungere la loro casa quest'anno, Edwards. Mi faresti il favore di portar loro i regali? Solo per questa volta? Oh, lo farò, e con piacere, gli aveva detto il signor Edwards. Allora, Babbo Natale e il signor Edwards avevano attraversato la strada e raggiunto il punto in cui era legato il mulo da carico che trasportava i pacchetti. Ma non aveva le renne? Chiese Laura. Sai bene che non poteva, disse Mary, non c'è neve. Esatto, disse il signor Edwards. Nel sud-ovest del paese Babbo Natale viaggia con un mulo. Così Babbo Natale aveva slegato il fagotto, frugato al suo interno e tirato fuori i regali per Mary e Laura. Oh, cosa sono? Gridò Laura. Ma Mary chiese: E poi che cosa ha fatto? Babbo Natale aveva stretto la mano al signor Edwards ed era salito in groppa al suo bel cavallo marrone. Cavalcava bene per un uomo del suo peso e della sua stazza. Si era infilato i lunghi baffi bianchi dentro la sciarpa. Arrivederci, Edwards, aveva detto, ed era partito lungo la strada diretta a Fort Dodge, trainando il suo mulo da carico e fischiettando. Laura e Mary rimasero un attimo in silenzio a pensare a tutto questo. Poi mamma disse: Adesso potete guardare, bambine. Qualcosa brillava in cima alla calza di Laura. Urlando saltò giù dal letto, lo stesso fece Mary, ma Laura arrivò per prima al camino e quella cosa che brillava era una tazza di stagno nuova fiammante. Mary ne aveva una identica. Queste nuove tazze di stagno erano proprio per loro. Ora ciascuno aveva la sua tazza per bere. Laura saltellava, gridando e ridendo, mentre Mary rimase in piedi a guardare incantata la sua tazza. Poi infilarono di nuovo le mani nelle calze e tirarono fuori due lunghi bastoncini di zucchero. Erano caramelle alla menta, a strisce rosse e bianche. Guardarono ancora e ancora quelle belle caramelle. Poi Laura leccò la sua, solo una leccata, ma Mary non era così ingorda, non diede nemmeno una leccatina al suo bastoncino. Le calze non si erano ancora svuotate. Mary e Laura tirarono fuori due pacchettini, li aprirono e ciascuna vi trovò un dolcetto a forma di cuore. Sulla delicata superficie marrone brillava uno strato di zucchero bianco. I granelli scintillanti sembravano piccoli fiocchi di neve. Erano dolcetti troppo belli per essere mangiati. Mary e Laura si limitarono a guardarli, ma alla fine Laura girò il suo al contrario e ne prese un pezzetto da sotto dove non si sarebbe visto e all'interno il dolcetto era bianco. Era fatto con farina bianca purissima e dolcificato con zucchero bianco. Laura e Mary non avrebbero più guardato nelle calze. Le tazze, i dolcetti e le caramelle erano fin troppo, erano così felici che non riuscivano a parlare. Però mamma chiese loro se erano sicure che le calze fossero vuote. Allora, per sicurezza, ci infilarono di nuovo le mani. E al fondo di ciascuna calza c'era una moneta da un penny, nuova, fiammante. Non avevano mai pensato che avrebbero potuto possedere una moneta. Un intero penny, tutto per loro, una tazza, un dolcetto, un bastoncino di zucchero e una caramella. Non avevano mai trascorso un Natale così bello. Ora, naturalmente, Laura e Mary avrebbero dovuto subito ringraziare il signor Edwards per aver portato quei bellissimi regali fin da Independence, ma si erano completamente dimenticate del signor Edwards. Avevano dimenticato persino Babbo Natale. Un attimo dopo se ne sarebbero ricordate, ma prima che lo facessero, mamma disse gentilmente: "Non ringraziate il signor Edwards?" "Oh, grazie, signor Edwards, grazie!" dissero dal più profondo del loro cuore. Papà strinse la mano del signor Edwards, poi la strinse di nuovo. Papà, mamma e il signor Edwards avevano le lacrime agli occhi. Laura non capiva perché. Così tornò a occuparsi dei suoi bei regali. Sollevò nuovamente la testa quando mamma emise un sospiro di stupore. Il signor Edwards si stava tirando fuori dalle tasche delle patate dolci. Disse che gli erano servite a bilanciare il peso del fagotto che portava sulla testa mentre attraversava il ruscello. Aveva pensato che papà e mamma le avrebbero apprezzate insieme al tacchino di Natale. C'erano 9 patate dolci. Ah, il signor Edwards le aveva portate per tutto il tragitto dalla città. Era davvero troppo, disse papà. È troppo, Edwards. Non avrebbero mai potuto ringraziarlo abbastanza. Mary e Laura erano troppo eccitate per fare colazione, bevere il latte nelle loro tazze nuove fiammanti, ma non poterono mandar giù il coniglio stufato né la polenta di mais. Non cuocerle, Charles, disse mamma. Tra poco sarà ora di cena. Per cena c'era il tacchino arrosto, tenero e succoso. C'erano le patate dolci cotte nella cenere e pulite con cura in modo da poter mangiare anche la buccia. E c'era una fetta di pane bianco lievitato, fatto con quel che rimaneva della farina bianca. E come se non bastasse, c'erano le more essiccate e dei dolcetti. Ma questi dolcetti erano fatti con zucchero grezzo e non erano ricoperti di zucchero bianco scintillante. Poi papà, mamma e il signor Edwards sedettero vicino al camino. E parlarono di com'era il Natale nel Tennessee e nei grandi boschi. Intanto Laura e Mary guardavano i loro bei dolcetti, giocavano con i loro penny e bevevano acqua dalle loro tazze nuove. Poi cominciarono a succhiare i bastoncini di zucchero, finché una delle estremità non divenne appuntita. Fu davvero un Natale felice. Un grido nella notte. Le giornate erano corte e grigie ora, le notti fredde e buie, le nuvole basse sopra la piccola casa si stendevano su tutta la cupa prateria. La pioggia cadeva e a volte il vento portava la neve. Pezzetti di neve indurita roteavano in aria e si muovevano sull'erba tristemente ricurva. Poi, il giorno dopo, la neve era sparita. Ogni giorno Papà andava a caccia e si occupava delle trapole. Nella casa confortevole, illuminata dal fuoco del camino, Mary e Laura aiutavano mamma nelle faccende. Poi cucivano quadrati, patchwork, giocavano a batti le manine con Carrie, poi alla caccia al tesoro con un pezzo di spago e con le dita giocavano a ripiglino, poi a zuppa di fagioli calda, una di fronte all'altra, battevano le mani prima tra di loro, poi contro le mani dell'altra, tenendo il tempo e cantando zuppa di fagioli calda, zuppa di fagioli fredda, zuppa di fagioli nella pentola vecchia di 9 giorni. Ad alcuni piace calda, ad alcuni piace fredda, ad alcuni piace nella pentola vecchia di 9 giorni. A me piace calda, a me piace fredda, a me piace nella pentola vecchia di 9 giorni. Ed era vero, non c'era niente di buono quanto una bella zuppa di fagioli condita con un pezzetto di lardo che mamma metteva nei piatti quando papà tornava dalla caccia stanco e infreddolito. A Laura piaceva calda e anche fredda ed era sempre buona finché durava, ma non durava mai 9 giorni, la finivano molto prima. Per tutto il tempo il vento soffiava, strillava, ululava, gemeva, urlava e singhiozzava malinconico. Erano abituate al suono del vento, lo sentivano tutto il giorno e la notte, mentre dormivano, sapevano che stava soffiando. Ma una notte sentirono un grido così terribile che si svegliarono tutte. Papà saltò giù dal letto e mamma disse: Charles, cos'era? È una donna che urla, disse papà. Si vestì più in fretta che poté, sembrava venire dalla casa degli Scott. Oh, cosa sarà successo? Chiese mamma. Papà si stava mettendo gli stivali, infilò il piede, poi infilò le dita nelle linguette in cima allo stivale, tirò con forza, sbatté il piede a terra e lo stivale era infilato. Forse Scott sta male, disse infilando l'altro stivale. Non credi che? Chiese mamma sottovoce. No, disse papà, ti ho già detto 1000 volte che non ci daranno alcun fastidio, sono perfettamente tranquilli e pacifici nei loro accampamenti a valle. Laura fece per alzarsi dal letto, ma mamma le disse: sdraiati. Stai ferma, Laura. Così si coricò. Papà indossò il suo caldo giaccone chiaro a quadri, il cappello di pelliccia e lo sciarpone. Accese la candela della lanterna, prese il fucile e uscì. Prima che richiudesse la porta alle sue spalle, Laura vide la notte là fuori. Era buia e nera, non c'era neanche una stella. Laura non aveva mai visto un buio così totale. Ma, disse, cosa, Laura? Perché è così buio? Ci sarà una tempesta, rispose mamma. Tirò dentro il cordino del chiavistello e mise un grosso pezzo di legno nel fuoco. Poi tornò a letto, ma non si addormentò, né lei e nemmeno Mary e Laura. Stavano svegli e ascoltavano. Non si sentiva nient'altro che il vento. Mary infilò la testa sotto la coperta e disse sottovoce: Vorrei che papà tornasse a casa. Laura annuì con la testa sul cuscino, ma non riuscì a dire nulla. Le sembrava di vedere papà che camminava in cima al promontorio, lungo il sentiero che portava a casa del signor Scott. Piccoli spiragli di luce uscivano qua e là dai fori della lanterna di stagno. Le lucine tremolanti sembravano perse in quel buio nero. Dopo un bel po' Laura sussurrò: Deve essere quasi giorno. E Mary annuì. Per tutto quel tempo erano state a letto ad ascoltare il vento e papà non era tornato. Poi sentirono di nuovo quel terribile grido che copriva il rumore del vento. Sembrava piuttosto vicino alla casa. Anche Laura urlò, balzando giù dal letto. Mary si nascose sotto le coperte. Mamma si alzò e cominciò a vestirsi in fretta. Mise un altro pezzo di legno nel fuoco e disse a Laura di tornare a letto. Ma Laura la implorò finché non disse che poteva rimanere alzata. Mettiti lo scialle, disse mamma. Rimasero in ascolto, vicino al fuoco. Non si sentiva nient'altro che il vento. Non c'era niente che potessero fare, ma almeno non erano a letto. All'improvviso sentirono bussare alla porta e papà urlò: Fammi entrare! Presto, Caroline! Mamma aprì la porta e papà la sbatté veloce alle sue spalle. Aveva il fiatone, si spinse indietro il cappello e disse: Che spavento! Che cos'era, Charles? Disse mamma. Una pantera, disse papà. Era andato più in fretta che poteva a casa del signor Scott. Quando era arrivato, la casa era buia e tutto era tranquillo. Papà aveva fatto il giro della casa tendendo le orecchie e aguzzando la vista alla luce della lanterna. Non aveva visto niente di strano. Si era sentito stupido per essersi alzato, vestito nel bel mezzo della notte e aver camminato per 3 chilometri solo perché aveva sentito rumore nel vento. Non voleva che il signore e la signora Scott lo sapessero, quindi non li aveva svegliati. Era tornato a casa più in fretta che poteva perché il vento era gelido e stava percorrendo in fretta il sentiero lungo il bordo del promontorio quando all'improvviso aveva sentito quel grido proprio sotto ai suoi piedi. Mi si sono drizzati i capelli fino a sollevare il berretto, disse a Laura. Sono corso a casa come un coniglio impaurito. Dov'era la pantera, pa? Chiese lei. In cima a un albero, rispose papà, in cima a quel grande pioppo che cresce lì lungo la parete del promontorio. Ti ha seguito, pa? Chiese Laura. E lui rispose: Non lo so. Beh, adesso sei al sicuro, Charles, disse mamma. Sì, e ne sono felice. Questa notte è troppo buia per starsene fuori con le pantere, disse papà. Laura, dov'è il mio cavastivali? Laura glielo portò. Il cavastivali era una sottile tavola di legno con un incavo da una parte e una sorta di tacchetto nel mezzo. Laura lo mise sul pavimento con il tacchetto rivolto verso il basso e questo fece sollevare la parte con l'incavo. Poi papà ci salì sopra con un piede. Mise l'altro piede nell'incavo e questo trattenne lo stivale mentre lui tirava fuori il piede. Poi allo stesso modo tirò fuori l'altro piede. Gli stivali erano stretti ma si sfilarono. Laura lo guardò mentre se li toglieva, poi chiese: La pantera potrebbe portare via una bambina, pa? Oh sì, disse papà, e anche ucciderla e mangiarla. Tu e Mary dovete rimanere in casa finché non l'avrò uccisa. Non appena farà giorno prenderò il fucile e andrò a cercarla. Per tutto il giorno successivo papà andò a caccia della pantera e anche quello seguente e quello dopo ancora. Trovò le sue impronte, il nascondiglio e le ossa di un antilope che la pantera aveva mangiato, ma non trovò la pantera da nessuna parte. La pantera saliva in cima agli alberi e da lì poteva spostarsi senza lasciare tracce. Papà disse che avrebbe continuato finché non l'avesse uccisa e non smise di cercarla. Un giorno nel bosco incontrò un indiano. Stavano lì nel bosco freddo e umido e si guardavano l'un l'altro. Non potevano parlare perché non conoscevano l'uno la lingua dell'altro, ma l'indiano indicò le impronte della pantera e a gesti spiegò a papà che l'aveva uccisa. Gli mostrò la cima dell'albero e poi il suolo per spiegargli che l'aveva colpita mentre era su un albero. Poi indicò il cielo, poi l'est e l'ovest per dirgli che l'aveva uccisa il giorno prima. Allora era tutto a posto, la pantera era morta. Laura chiese se la pantera avrebbe potuto prendere un piccolo pelle rossa, ucciderlo e mangiarlo, e papà disse di sì. Probabilmente quello era il motivo per cui l'indiano l'aveva uccisa.